di Laura Esquivel come l'acqua per il cioccolato. Primo capitolo. Gennaio. Focaccine di Natale. Ingredienti: una scatola di sardine, mezza salsiccia, una cipolla, origano, una scatola di peperoncini serranos, 10 focaccine. Preparazione. La cipolla deve essere tritata fine fine. Suggerisco di metterne un pezzetto in testa per evitare la fastidiosa lacrimazione che si produce quando la si taglia. Il brutto di piangere tritando la cipolla non è il semplice fatto di piangere, ma è che quando cominci poi ti bruciano gli occhi e non smetti più. Non so se sia già capitato anche a voi, ma a me certamente sì, una infinità di volte. La mamma diceva che era perché sono sensibile alla cipolla, proprio come Tita, la mia prozia. Raccontano che Tita era così sensibile che già quando stava nella pancia della mia bisnonna, quando lei tritava cipolle, non smetteva più di piangere. Il suo pianto era così forte che Nacia, la cuoca di casa, che era mezza sorda, lo udiva senza sforzo. Un giorno i singhiozzi furono talmente forti da anticipare il parto e senza che la mia bisnonna potesse dire bah, Tita venne al mondo prematuramente sul tavolo della cucina, fra gli odori del minestrone che stava cuocendo, del timo, dell'alloro, del coriandolo, del latte bollito, dell'aglio e naturalmente della cipolla. Come potete immaginare, la consueta sculacciata non fu necessaria perché quando Tita nacque già piangeva, forse perché sapeva che secondo il suo oroscopo in questa vita le sarebbe stato negato il matrimonio. Nacia raccontava che Tita era stata letteralmente spinta su questa terra da un impressionante torrente di lacrime che si erano riversate sul tavolo e sul pavimento della cucina. Al pomeriggio, quando ormai lo spavento era passato e l'acqua, grazie all'effetto dei raggi del sole, era evaporata, Nacia spazzò via le ultime lacrime, rimaste sulle mattonelle rosse del pavimento. Con il sale ricavato riempì un sacco da 5 chili che servì a cucinare per parecchio tempo. Questa nascita insolita determinò l'immenso amore di Tita per la cucina e il fatto che vi trascorresse la maggior parte della sua vita, praticamente dal giorno della nascita, poiché quando aveva appena 2 giorni suo padre, ossia il mio bisnonno, morì di infarto. Per lo shock, mamma Elena perse il latte. Siccome a quei tempi il latte in polvere non esisteva ancora e non c'era neppure nulla che gli somigliasse, e siccome non fu possibile procurarle una balia da nessuna parte, si trovarono in un vero pasticcio per calmare la fame della bambina. Ma Anacia, che la sapeva lunga su tutto quanto riguardava la cucina e su molte cose che ora esulano dal nostro caso, si offrì di occuparsi dell'alimentazione di Tita. Si riteneva la più adatta a forgiare lo stomaco dell'innocente creaturina, sebbene non si fosse sposata né avesse mai avuto figli. Non sapeva neppure leggere né scrivere, ma è certo che di cucina se ne intendeva proprio. Mamma Elena accettò l'offerta di buon grado, poiché era già abbastanza presa dalla sua tristezza e dall'enorme responsabilità di mandare avanti la fattoria. In tal modo avrebbe potuto dare ai suoi figli l'alimentazione e l'educazione che meritavano, senza doversi preoccupare anche di nutrire debitamente la neonata. Pertanto, da quel giorno Tita si trasferì in cucina e tra atoles, una bevanda calda a base di acqua e mais macinato, e tè, crebbe sana e vivace. È quindi comprensibile che le si fosse sviluppato un sesto senso per tutto ciò che riguardava il cibo. Per esempio, le sue abitudini alimentari erano condizionate dagli orari della cucina. Quando al mattino capiva che i fagioli erano cotti o a mezzogiorno sentiva che l'acqua era pronta per spennare le galline, oppure al pomeriggio si infornava il pane per la cena, Tita sapeva che era giunta l'ora di chiedere la pappa. A volte piangeva senza scopo, come quando Nacia tritava le cipolle, ma siccome tutte e due conoscevano il motivo di quelle lacrime, non ci facevano caso. Diventavano addirittura un'occasione di svago, tanto che durante la sua infanzia Tita non distingueva bene le lacrime del riso da quelle del pianto. Per lei ridere era un modo di piangere. Allo stesso modo, confondeva la gioia di vivere con quella di mangiare. Non era facile per una persona che aveva imparato a vivere in cucina capire il mondo esterno, quel gigantesco mondo che andava dalla porta della cucina all'interno della casa. Il mondo che invece confinava con la porta posteriore della cucina e che si affacciava sul cortile, sul giardino e sull'orto, quello sì, le apparteneva completamente, era il suo dominio. Le sue sorelle, al contrario, ne erano spaventate, lo trovavano pieno di pericoli, sconosciuti. A loro i giochi fatti in cucina parevano assurdi e rischiosi. Ma un giorno Tita le convinse che era uno spettacolo fantastico veder danzare le gocce d'acqua che cadono sul comal. Il disco di terracotta usato per cuocere le tortillas di mais, quando il comale è ben caldo. Mentre Tita cantava e scuoteva ritmicamente le mani bagnate perché le gocce d'acqua cadessero sul comale e danzassero, Rosaura però rimase in un angolo, stupita di ciò che vedeva. Gertrudis, invece, sempre affascinata da tutto ciò che riguardava il ritmo, il movimento, la musica, si sentì fortemente attratta dal gioco e vi partecipò con entusiasmo. A quel punto Rosaura si vide costretta a fare lo stesso, ma siccome si era bagnata poco le mani e le muoveva con eccessivo timore, non ottenne l'effetto sperato. Tita allora cercò di aiutarla avvicinandole le mani al comal. Rosaura oppose resistenza e la lotta non ebbe fine finché Tita, molto seccata, le lasciò andare le mani che caddero di peso sul comal ardente. Oltre a guadagnarsi una sonora bastonata, Tita ebbe il divieto di giocare con le sorelle in quello che era ormai il suo mondo. Nacha si trasformò allora nella compagna dei suoi svaghi. Insieme si dedicavano a inventare giochi e attività che avevano sempre un rapporto con la cucina. Come il giorno in cui videro nella piazza del paese un signore che componeva figure di animali con palloncini di forma allungata ed ebbero l'idea di ripetere l'operazione utilizzando però pezzi di salsiccia. Non forgiarono solo animali noti, ma ne inventarono anche di nuovi, ad esempio uno con collo di cigno, zampe di cane e coda di cavallo. Il problema sorgeva quando dovevano disfarli per friggere la salsiccia. Il più delle volte Tita si opponeva, cedeva soltanto quando si trattava di confezionare le focaccine di Natale, poiché ne era ghiotta. In quel caso non solo permetteva che uno dei suoi animali venisse disfatto, ma lo osservava allegra mentre friggeva. Bisognava friggere la salsiccia a fuoco molto basso, perché deve cuocere bene senza rosolare troppo. Quando è pronta la si toglie dal fuoco e si aggiungono le sardine previamente disliscate. È necessario anche raschiare la pelle delle sardine con un coltello per eliminare le macchie nere. Al composto si uniscono la cipolla, i peperoncini tritati e l'origano macinato e si lascia riposare prima di farcire le focacce. Tita apprezzava moltissimo questa fase perché mentre il ripieno riposa è molto piacevole godersi il suo profumo. E gli odori ci riportano a tempi passati, assieme a suoni e a odori mai uguagliati nel presente. A Tita piaceva ispirarli profondamente e viaggiare nei meandri della sua memoria con il fumo e in particolare odore che percepiva. Cercava invano di ricordare la prima volta che aveva annusato una di quelle focacce, ma senza risultato, perché probabilmente era stato prima di nascere. Forse era stata la strana mescolanza di sardine e salsiccia a soleticarla, fino al punto di rinunciare alla pace del cielo e di scegliere come ventre materno quello di mamma Elena, così da entrare a far parte della famiglia della Garsa, che mangiava cibi prelibati e preparava una salsiccia davvero speciale. In casa di mamma Elena, la preparazione della salsiccia era un vero rito. Si iniziava a sbucciare aglio, pulire peperoncini e macinare spezie un giorno prima. Tutte le donne della famiglia dovevano partecipare. Mamma Elena, le figlie Gertrudis, Rosaura e Tita, la cuoca Nacia e la domestica Cencia. Il pomeriggio si sedevano al tavolo della sala da pranzo e tra chiacchiere e scherzi il tempo volava fino al tramonto. Allora mamma Elena diceva: "Per oggi abbiamo finito." Si dice che a buon intenditore poche parole, e in effetti bastava ascoltare questa frase e tutte sapevano che cosa dovevano fare. Innanzitutto sparecchiavano, poi si dividevano i compiti. A una toccava rinchiudere le galline, a un'altra attingere acqua dal pozzo e metterla da parte, così era già pronta per la colazione, e c'era chi si incaricava della legna per la stufa. Quel giorno non si stirava, né si ricamava né si cuciva. Dopodiché andavano tutte nelle loro camere a leggere, a pregare e a dormire. Una di quelle sere Prima che mamma Elena dicesse che ormai si potevano alzare da tavola, Tita, che aveva allora 15 anni, le annunciò con voce tremante che Pedro Musquiz voleva venire a parlarle. «E di che cosa mi dovrebbe parlare questo signore?» disse mamma Elena dopo un interminabile silenzio che raggelò l'anima di Tita. Così Tita, scoraggiata, con voce quasi impercettibile, rispose: «Non so». Mamma Elena le lanciò un'occhiata che per Tita era la somma di tutti gli anni di repressione che erano gravati sulla famiglia e disse: «Se è per chiedere la tua mano, è meglio che tu gli dica di non farlo. Perde tempo lui e perdo tempo io. Sai bene che in quanto figlia minore dovrai occuparti di me fino al giorno della mia morte». Detto questo, mamma Elena si alzò lentamente, ripose gli occhiali nel grembiule e amò. Di ordine definitivo, ripeté: «Per oggi abbiamo finito». Tita sapeva che il dialogo non faceva parte delle regole di comunicazione della casa. Ciò nonostante, per la prima volta in vita sua, tentò di opporsi a un ordine della madre. «Ma è che io penso che tu non pensi niente, e basta. Nella mia famiglia per generazioni e generazioni nessuno ha mai protestato di fronte a questa consuetudine e non sarà certo una delle mie figlie a farlo». Tita abbassò la testa e il destino cadde su di lei, con la stessa forza con cui le sue lacrime caddero sul tavolo. Da quel momento lei e il tavolo capirono che non avrebbero potuto minimamente modificare la direzione di queste forze sconosciute, le quali obbligavano il tavolo, che riceveva le sue amare lacrime fin da quando era nata, a condividere il destino di Tita e Tita ad accettare questa assurda decisione. Tuttavia Tita non era d'accordo. Molti dubbi e inquietudini le passavano per la mente. Avrebbe voluto sapere, per esempio, chi aveva iniziato quella tradizione familiare. Era giusto spiegare all'ingegnoso inventore che nel suo piano perfetto per assicurare la vecchiaia delle donne c'era una lieve falla. Eh già, se Tita non poteva sposarsi né avere figli, chi mai si sarebbe occupato di lei nella sua vecchiaia? Qual era la soluzione giusta in questi casi? O forse si sperava che le figlie dedite alle madri non sopravvivessero a lungo dopo la scomparsa delle progenitrici? E dove finivano le donne sposate che non potevano avere figli? Chi avrebbe avuto cura di loro? E inoltre voleva sapere quali studi erano stati fatti per arrivare alla conclusione che la figlia minore era più adatta della maggiore a vegliare sulla madre. Si era tenuto conto in qualche occasione dell'opinione delle figlie interessate? Avrebbe potuto almeno, se non sposarsi, conoscere l'amore o neppure questo. Tita sapeva bene che tutti questi interrogativi sarebbero irrimediabilmente entrati nell'archivio delle domande senza risposta. Nella famiglia della Garza si ubbidiva e basta. Mamma Elena, ignorando completamente la figlia, uscì dalla cucina molto seccata e per una settimana non le rivolse più la parola. La ripresa della loro semicomunicazione ebbe origine quando, controllando i vestiti che ognuna delle donne aveva cucito, mamma Elena scoprì che, sebbene quello confezionato da Tita fosse il più perfetto, non era stato imbastito prima. «Complimenti», le disse. «I punti sono perfetti, ma non l'hai imbastito, vero?» «No», rispose Tita, stupita che la legge del silenzio fosse stata infranta. «Allora lo devi disfare. Lo imbastisci, lo ricuci e poi te lo controllo. Così impari che chi va piano va sano e va lontano». «Questo è vero quando uno sbaglia, ma proprio lei, mamma, un momento fa ha detto che il mio era...» «Si ricomincia con la ribellione? Non ti basta aver infranto per una volta le regole del cucito? Mi perdoni, mammina, non lo farò più». Con queste parole Tita riuscì a placare l'ira di mamma Elena. Aveva fatto molta attenzione a pronunciare mammina al momento giusto e con il tono adeguato. Mamma Elena riteneva che la parola mamma fosse sprezzante, perciò aveva obbligato le figlie fin da bambine a usare la parola mammina quando si rivolgevano a lei. L'unica che non voleva adeguarsi o che pronunciava la parola in un tono inadatto era Tita, e questo le aveva attirato un'infinità di schiaffoni. Ma come l'aveva detta bene in quell'occasione, mamma Elena si sentiva confortata dal pensiero che forse stava riuscendo a piegare il carattere della figlia minore. Purtroppo questa speranza durò poco. Poiché il giorno successivo si presentò in casa Pedro Musquiz accompagnato dal suo signor padre, con l'intenzione di chiedere la mano di Tita. La sua presenza creò un grande sconcerto. Non aspettavano la sua visita. Giorni prima Tita aveva mandato a Pedro un messaggio attraverso il fratello di Nacha, chiedendogli di desistere dal suo proposito. Nonostante quest'ultimo giurasse di averlo consegnato a Don Pedro, sta di fatto che padre e figlio si presentarono in casa. Mamma Elena li fece accomodare in sala, si comportò molto cortesemente, spiegò loro la ragione per cui Tita non poteva sposarsi. È chiaro che se a Pedro interessa sposarsi, sottopongo alla vostra considerazione mia figlia Rosaura, di 2 anni maggiore di Tita, ma pienamente disponibile e preparata al matrimonio. Udendo queste parole, per poco Cencia non rovesciò addosso a mamma Elena il vassoio con il caffè e i biscotti che aveva portato in sala per offrirli a Don Pascal e a suo figlio. Chiedendo scusa, si ritirò in gran fretta verso la cucina, dove Tita, Rosaura e Gertrudis la stavano aspettando per ottenere un resoconto dettagliato di ciò che succedeva in sala. Entrò molto agitata e tutte sospesero i loro lavori per non perdere una sola delle sue parole. Erano lì riunite per preparare le focacce di Natale. Come indica il nome, queste focacce si preparano durante il periodo natalizio. Ma in questa occasione le stavano cucinando per festeggiare il compleanno di Tita. Il 30 settembre avrebbe compiuto 16 anni e voleva festeggiarli mangiando uno dei suoi manicaretti favoriti. Oh, questa poi! Vostra mamma dice così, che siete pronte per il matrimonio, neanche foste un piatto di enchiladas. Sono sottili focacce di mais non lievitate, arrotolate e farcite con il mole. Piatto a base di carne in salsa di peperoni, sesamo e altre spezie. Sta fresca, che è lo stesso, non è mica lo stesso, proseguì Cencia. La gente non può trasformare i tacos in enchiladas in 4 e 4 8. La pasta dei tacos è la stessa delle enchiladas, ma con ripieno diverso dal mole. Cencia non smetteva di fare questo genere di commenti mentre raccontava a modo suo la scena di cui era appena stata testimone. Tita sapeva quanto Cencia potesse essere esagerata e bugiarda e dunque non si lasciò prendere dal panico. Si rifiutava di credere a quello che aveva appena udito. Fingendo serenità, continuò a tagliare le focaccine che le sue sorelle e Nacia dovevano farcire. La pasta è sempre meglio prepararla in casa. Tuttavia, se questo non è possibile, conviene ordinare in panetteria delle focacce piccole perché le grandi a questa ricetta non si adattano bene. Dopo averle riempite, si mettono in forno per 10 minuti e si servono calde. L'ideale è lasciarle fuori tutta la notte, avvolte in un panno, affinché il pane si impregni del grasso della salsiccia. Mentre Tita stava finendo di arrotolare le torte che avrebbero mangiato il giorno dopo, mamma Elena entrò in cucina dicendo che aveva consentito che Pedro si sposasse, ma con Rosaura. Quando udì la notizia, Tita sentì come se l'inverno le fosse entrato violentemente in corpo. Il freddo era così secco e pungente da bruciarle le guance che si arrossarono come le mele che aveva di fronte. Questo freddo repentino l'avrebbe accompagnata a lungo, senza che nulla potesse attenuarlo, e non diminuì neppure quando Nacha le raccontò ciò che aveva sentito accompagnando Don Pascal, Musquiz e suo figlio alla porta di casa. Nacha camminava davanti, cercando di accorciare il passo per ascoltare meglio la conversazione tra padre e figlio. Don Pascal e Pedro camminavano lentamente, parlavano a voce bassa, soffocata dalla rabbia. Perché hai fatto questo, Pedro? Ci siamo messi in ridicolo accettando le nozze con Rosaura. Dov'è finito l'amore che avevi giurato a Tita? Sei forse uno che non mantiene la parola? Certo che la mantengo, ma se a lei negassero tassativamente di sposare la donna amata e l'unica via d'uscita per restare vicino alla sua donna fosse quella di sposare la sorella, non prenderebbe la mia stessa decisione? Nacha non era riuscita a sentire la risposta perché Pulche, il cane della fattoria, abbaiando, si era messo a inseguire un coniglio che aveva scambiato per un gatto. Allora ti sposi senza amore? No, papà, mi sposo provando un amore immenso e imperituro per Tita. Le voci si facevano sempre più impercettibili, spente dal rumore delle scarpe sulle foglie secche. Era strano che Nacha, ogni giorno più sorda, fosse riuscita ad ascoltare la conversazione. Tita le fu ugualmente grata per avergliela riferita, ma questo non modificò l'atteggiamento di freddo rispetto che da allora assunse verso Pedro. Dicono che il sordo non sente, ma capisce tutto. Forse Nacia aveva sentito le parole che tutti avevano taciuto. Quella notte Tita non riuscì a prender sonno, non sapeva spiegare ciò che provava. Peccato che a quell'epoca non fossero ancora stati scoperti i buchi neri dello spazio, perché in quel caso le sarebbe stato molto facile capire che sentiva un buco nero in mezzo al petto, dentro il quale si insinuava un freddo infinito. Ogni volta che chiudeva gli occhi, il freddo aumentava, poiché poteva rivivere assai chiaramente la sera di Natale di un anno prima, quando Pedro e la sua famiglia erano venuti a cena da loro per la prima volta. Nonostante fosse passato del tempo, poteva ricordare perfettamente i suoni, gli odori, il fruscio del suo vestito nuovo sul pavimento appena incerato e lo sguardo di Pedro alle sue spalle. Che sguardo! Lei camminava verso il tavolo, portando un vassoio con dei pasticcini alla crema, quando lo sentì così ardente da bruciarle la pelle. Girò la testa e i suoi occhi si incontrarono con quelli di Pedro. In quel momento capì perfettamente ciò che prova una frittella quando entra a contatto con l'olio bollente. La sensazione di calore che aveva invaso tutto il suo corpo era così reale che di fronte al timore di diventare una frittella e di ritrovarsi tutto il corpo ricoperto di bolle, la faccia, il ventre, il cuore, i seni, Tita non riuscì a sostenere quello sguardo e abbassando gli occhi attraversò rapidamente tutta la sala fino all'angolo in cui Gertrudis pedalava alla pianola il valzer Occhi di gioventù. Depose il vassoio su di un tavolo, prese distrattamente un bicchierino di liquore di noyau nel quale si era imbattuta e si sedette di fianco a Paquita Lobo, sua vicina di casa. L'essersi allontanata da Pedro non servì a nulla, sentiva il sangue bruciarle le vene. Un intenso rossore le copriva le guance e, nonostante gli sforzi, non trovava dove posare lo sguardo. Paquita notò qualcosa di strano e, mostrando notevole apprensione, le chiese: «Che buono questo liquore, non trovi?» «Come dice?» «Ti vedo molto distratta, Tita, ti senti bene?» «Oh sì, molte grazie.» Hai già l'età per poter bere un po' di liquore nelle occasioni speciali, birbantella, ma dimmi un po', ce l'hai il permesso della mamma? Sei agitata e stai tremando», aggiunse in tono protettivo. «È meglio che tu smetta di bere perché potresti dare spettacolo». Ah, ci mancava solo che Paquita Lobo la credesse ubriaca. Non poteva permettersi di lasciarla nel dubbio, altrimenti c'era il rischio che il pettegolezzo arrivasse alla mamma. Il terrore di sua madre le fece dimenticare per un momento la presenza di Pedro e cercò con tutti i mezzi di convincerle Paquita della sua lucidità e agilità mentale. Conversò con lei di pettegolezzi e sciocchezze, le fornì anche la ricetta di quel noiò che tanto la preoccupava. Questo liquore si prepara mettendo 4 once di armelline di pesca e mezza libra di armelline di albicocca in una sumbre di acqua, un'unità di misura per liquidi, per 24 ore. Per ammorbidirne la pelle. Quindi si pelano, si schiacciano e si mettono in infusione in 2 assumbre di acquavite per 15 giorni. Si procede poi alla distillazione. A 2 libbre e mezzo di zucchero sciolto perfettamente in acqua si aggiungono 4 once di fiori d'arancio, si mescola e si filtra. E per togliere ogni dubbio sulla sua salute fisica e mentale, Tita ricordò a Paquita con noncuranza che una sombra equivale esattamente a 2,16 litri. E così, quando mamma Elena si avvicinò a Paquita chiedendole se si trovava bene, questa rispose entusiasta: «Oh, sto benissimo, hai delle figlie meravigliose e con loro si conversa che è proprio un piacere». Mamma Elena ordinò a Tita di andare in cucina a prendere degli stuzzichini per offrirli agli ospiti. Pedro, che in quel momento passava di lì e non per caso, si offrì di aiutarla. Tita camminò frettolosamente verso la cucina, senza pronunciare una sola parola. La vicinanza di Pedro la rendeva molto nervosa. Entrò e prese rapidamente uno dei vassoi con i deliziosi stuzzichini che aspettavano pazientemente sul tavolo della cucina. Fu Fu un momento indimenticabile, quando le loro mani si sfiorarono accidentalmente, mentre tutte e due cercavano impacciati di prendere nello stesso istante lo stesso vassoio. Fu allora che Pedro le confessò il suo amore. Signorina Tita, vorrei approfittare del fatto che siamo soli per dirle che sono profondamente innamorato di lei. So che questa dichiarazione è sfrontata e precipitosa, ma è così difficile avvicinarla che ho deciso di farlo già questa sera. Le chiedo soltanto di dirmi se posso aspirare al suo amore. Non so che cosa risponderle. Mi dia tempo per pensare. No, non potrei. Ho bisogno di una risposta subito. L'amore non si pensa. Si sente o non si sente? Io sono uomo di poche ma sincere parole. Le giuro che avrà il mio amore per sempre. E lei? Anche lei? Prova lo stesso sentimento per me? Sì. Sì, e mille volte sì. Da quella sera lo amò. Per sempre. Ora, però, doveva rinunciare a lui. Era indecente desiderare il promesso sposo di sua sorella. Doveva cercare in qualche modo di toglierselo dalla mente per poter dormire. Tentò di mangiare la focaccia di Natale che Nacia le aveva lasciato sul comodino insieme a un bicchiere di latte. In molte altre occasioni aveva ottenuto eccellenti risultati. Nacia, con la sua grande esperienza, sapeva che per Tita non c'era pena che non sparisse mangiando una squisita focaccia di Natale. Ma non questa volta. Il vuoto che sentiva nello stomaco non le passò. Al contrario, la invase una sensazione di nausea. Si accorse che il buco non era dovuto alla fame. Si trattava piuttosto di un'algida sensazione di dolore. Era necessario eliminare quel freddo così fastidioso. Come prima cosa si coprì con una pesante coperta e indossò indumenti di lana. Ma il freddo non voleva scomparire. Allora si infilò le babbucce di maglia e si coprì con altri due coltri. Niente. Per ultima cosa, tirò fuori la coperta che aveva incominciato a fare il giorno in cui Pedro le aveva parlato di matrimonio. Una coperta come questa, lavorata all'uncinetto, ci si mette circa un anno a finirla. Giusto il tempo che Pedro e Tita avevano pensato di lasciar passare prima di celebrare le loro nozze. Decise di utilizzare la lana invece di sprecarla. E rabbiosamente lavorò e pianse, pianse e lavorò fino all'alba, quando si buttò addosso la coperta finita. Fu tutto inutile, né in quella notte né in molte altre della sua vita riuscì a sconfiggere il freddo. Continua, prossima ricetta, torta ciabella.